Giovannotti e Luca Carboni, anno 2003. O è Natale tutti i giorni o non è Natale mai. Parole sante, come sarebbe bello se fosse sempre Natale. La mattina di Natale, ad esempio, è bellissimo uscire di casa presto, quando ancora la città un pochino tace e tu esci di casa e c'è quell'aria fresca, frizzante, non solo per l'aria fresca, ma anche per quello spirito natalizio di cui è intriso qualunque persona tu incontri quel giorno. E in quel giorno succedono cose incredibili, meravigliose. Ad esempio, chiunque tu incontri per la strada ti sorride e ti augura Buon Natale. E tu fai lo stesso con lui. Anzi, fate a gara a chi lo fa per prima. E poi, anche se non gli auguri Buon Natale, a chiunque incontri almeno un bel sorriso riesci comunque a darglielo. E poi magari se incontri un povero saluti anche lui, magari gli fai anche l'elemosina. E poi telefoni a persone che non senti almeno da 365 giorni. Sì, quel giorno le chiami, le saluti, gli chiedi come va e poi magari ti chiedi anche: ma perché le ore buone del Natale per chiamare qualcuno sono così poche? E poi c'è il capitolo parenti, perché anche se c'è qualche difficoltà, qualche discordia, quel giorno si mette tutto da parte e un abbraccio e un saluto e un augurio lo si dispensa proprio a tutti per vivere almeno quel giorno una giornata serena. Ok, splendido giorno il Natale, ma una volta ho sentito una persona che diceva: oh, ma quelli lì che incontro e che mi salutano quel giorno con quel sorriso, ma io li ho visti anche la settimana prima e li vedrò anche la settimana dopo. Io sono sempre io, loro sono sempre loro. Perché la settimana prima e la settimana dopo non c'è lo stesso saluto e lo stesso sorriso? E quindi oggi vi voglio lanciare una grande sfida. Vediamo chi di voi ci sta. La sfida è questa. Qualunque persona oggi tu incontrerai, trattala come se fosse Natale. Sì, lo so che è difficilissimo, ma oltre a Carboni e Giovannotti, in pratica lo suggerisce anche Gesù quando dice: fai sempre agli altri ciò che vuoi che sia fatto a te. Oggi, quando incontri una persona, falle un bel sorriso e con voce squillante dille: buongiorno, buona giornata. E se anche incontri uno sconosciuto e però i vostri occhi si incrociano, fai anche lui un bel sorriso a 32 denti e fallo anche con la cassiera del supermercato e augurale buon lavoro. E se la vedi stanca, chiedile se è tanto che lavora, diglielo che la vedi stanca, ma non farlo solo il giorno di Natale, fallo anche oggi. E poi una roba pazzesca, però questa soltanto per gli utenti pro, sarebbe di fare un regalo a una persona che ami senza aspettare Natale. Fagli già oggi un bel pensiero, scrivigli un bigliettino, portagli una rosa, fai qualcosa che sai che gli fa piacere, ma fallo oggi, non aspettare a Natale per farlo. Ok, se accetti la sfida, scrivilo nei commenti qui sotto e invia questo video, condividilo, magari con qualche tuo amico che pensi che sia coraggioso come te e possa accogliere la sfida. E anche se non è Natale, buona giornata a tutti!